senza pensare che questa vita vale di più. E poi corriamo a vedere il sole che si addormenta davanti a noi e respiriamoci questo odore di aria e mare. Yeah.